le salute il braccio, perfetto il grande dolor, sarà valida in nuzia, farete la ventana ver, però ricorda quando sia lo che le dirà un dottor. Siente lo perfetto, se lo che le passa, lo sanima le cose su propietà. Por medicina, le aconsejan todo, la capia aspirina con vivacidad. Bailar un son, siéntelo